facendo, mi sa. Ora, ora. Ma di Fortezza dici? No, no, di Mickey Game. Guarda l'alimentatore se lo senti. Sì, ma poco. Dai, gli ho fatto una capanna. È una capanna bassa però, meglio. Appena per proprio un'unghia di aria deve lasciare, non le fa niente. Aspetta allora che l'abbasso. Abbassala. Guarda qua così. Sì, sente poco, già va bene. Ascolta, mi chiedi a quanto ce l'hai, come l'abbiamo fatto stamattina? A uno qua. Lo smitter, boh, si muove molto poco qua. Già non ti preoccupare, guarda lo strumento che tu già si muove. Perché se andano con 20 watt. Ecco la mia centra. Ora, ora. E basta un po' mi chiedi forse, eh? Ah, infatti i picchi sono da quasi 9.10 a 9.12, 9.13. Ce li hai i picchi di modulazione. Mettilo a 1.5. Non mi piace, è troppo basso, mettilo a 1.5. Ecco la mia centra. Guarda così. Ora, 1, 2, 3, prova. Cazzo di roba, una volta. Da orco, gas. Appena di meno. Guarda così, Claudia. Distanza 30 centimetri al microfono. No, va bene, prova a allontanarti ancora di più. Ora, ora. Sì, ma non si muove lo strumento, cazzo, qua. Cioè, ma non già si muove, baci. Non deve andare così, mi pare. Forse troppo poco la potenza, 3 watt. Mettila a 25 watt. Sì, che lo strumento non era vero, cazzo, qua. No, non toccare i watt, cazzo. E Mickey che ti ho detto? I watt metti come erano, 25. Sì, ma lo strumento non lo schiaccio l'importanza, rimane a zero. Come poi sono fatto così? A zero. Ma dov'è, in IC o in LC? IC, IC. E così deve andare. E aumentare di più la potenza, metti la 30. C'è 9.5 con picchi di 9.20. Fate un conto. La radio ce l'hai a 1.5, hai detto? Sì, Claudia, 1.5. E non è perfetta perché il tuo microfono è non so se va bene per me. No, il problema del microfono va benissimo la radio. Perché è spinta. Avevamo detto che no, ma è spinta. Perché se sollevi vai praticamente strappi, capito? Vai a strappare. Comunque facciamo anche la prova con 60, non è un problema. Guarda che là, l'ho abbassato leggermente il microfono. Un po' basso, cazzo, è poco più di un microfono normale, così. Ora, e così come va? E così stai strappando. Così è a 2, perfetto, giusto, giusto. A 2 di amplificazione? Ehi, a 2, sì. Va bene così, ma scegliere, va bene. È un po' più forte del canale più 3 col Cobra. Leggermente di meno, un pochino di meno, com'è? Buona, va bene, può andare. Va grande. Se mi avvicino così, come va? Meglio o peggio? Niente, va bene lo stesso, non ci parlare sopra. In questa posizione va bene anche 20-30 cm per non stare col braccio lungo, capito? Va bene. Invece va bene col microfono, va male. Non lo puoi sollevare molto, però così va bene questa posizione. Tieni conto che l'hai accesa adesso la radio. Cosa qua, scusa, non ti ho capito. La radio adesso l'hai accesa. Era tutto spento. Vabbè, c'è anche la radio un po' fredda. Le radio sono un po' più calde e lavorano meglio i microprocessori, capito? Sai, no, che arrivi di niente, da Parrogero, Claudio, dai, proviamola domani che c'ho molto più tempo, adesso devo andare, dai. Che alle 5 a po'. A te, ogni volta. Che ho appuntamento alle 5, va bene? Beh, vai tranquillo, era solo per togliermi uno sfizio, lasciala così la regolazione, non la toccare. Dai, ciao, salutami a tutti e ci aggiorniamo domani, ciao. Zappa, ciao, ciao, saluto, sentiamo, ciao, ciao. Va bene, ciao, buonasera. Ehi, ehi, ciao Daniele, ciao Gaia. Divertitevi, dai, ci aggiorniamo domani, Massimiliano. La potenza del Mickey Gay, lascialo stare così com'è, ciao. Ciao, Cla. Ma vai da Gaia, per se vuoi rullare il suo microfono. La voce di lui a Freaga. Ciao, Gaia. Vabbè. Ciao, Rogero. Ma va, ogni acuto che va. Ragazzi, come te stessi, io via. Potevi venire all'esibizione a Bosa. A Bosa? Allora, a Bosa non c'è la sedia. Sì, ce ne sono un bel. ma gli ha compreso, Bosa. No, Gaglie, anche io dopo devo uscire, se no mi viene la malinconia qua a casa. Devo portare la mia scimmietta al parco. Capito, capito. La parroggia, ci vediamo domani. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, bello bene, dai, ci sentiamo. Ciao, a dopo. Cioè, a stanotte. Vai, sì, a stanotte. A domani. Ciao, bello bene. Ciao, ciao, Massimi. Mi raccomando. Andate piano senza fretta. Ciao. Dai. Ciao, Claudietto. Perfetto. Ciao, ciao, Danielita. A buona voce. La voce tua, che non serve, Massimiliano. Dai, a Daniela vale un acuto allucinante. È una vettiglia. Andiamo, dai, ciao di nuovo. Ciao, chiudo. Ciao, ciao, ciao. Chi è, chi è? Chi vuoi che sia? In agguato, in agguato, ragazzi. Ciao, già. Anzi, oggi me ne sono andato alle 2 al mare. Sono tornato a casa alle 6. C'era un po' di venticello, quindi un po' fresco, io fino a un certo ora ho resistito, poi avevo freddo, me ne sono tornato. Hai fatto molto, molto, molto bene, a non andare al mare chiaramente. Poca gente ancora, domani magari ci sarà molta più gente, però sai, per distrarmi, perché stare a casa poi alienante, quindi ho voluto fare questa uscitina. Vabbè, adesso mi organizzerò per i prossimi giorni. Dai, un po' d'aria fresca, un po' di iodio, staccare, insomma, stare, fa bene, dovrei farlo anch'io. Adesso vediamo se riesco a schiodarmi il culo qua. Bagno però niente, perché no, c'era fresco oggi, non sembra, a Sassari c'era caldo, ma lì c'era vento freschetto. Bagno, finché non ci sono 30 gradi all'ombra io bagno non ne faccio. La doccia, vabbè, la doccia l'ho fatta a casa, perché lì, sai, ci camminano 10.000, insomma, non è il massimo dell'igiene. Mi sono fatto la doccia a casa, calda. Eh beh, certo, vuoi mettere il comfort dell'ambiente familiare, altre cose, vabbè. Sì. Anche io, ti ripeto, dovrei mettere il naso fuori di casa. Vabbè, oggi già è una bella giornata, sì, c'è questo leggero venticello, magari sicuramente nei prossimi giorni sarà meglio. Poi era acceso, come sono tornato ho lasciato acceso con un volume basso, ma nessuno è entrato oggi. Negativo, ogni tanto sale un po' di propagazione, ma niente di che. E chi poteva è andato qua e là. Lo stesso qua nel pomeriggio era un via vai di gente che si organizzava per andare, forse al mare, chissà dove. Domani vediamo come la giornata, secondo me come faccio, vado domani, pure domani. Domani ci sarà molta più gente però. Per il parcheggio comincia a diventare critico. Poi con tutta quella rivoluzione che hanno fatto giù, stai parlando di Platamona, della rotonda lì, è arrivato un bel po' di casino. Alla rotonda proprio. comunque i gabinetti ci sono, non ho guardato se le docce le hanno ripristinate, se funzionano o no lì, proprio non ho guardato, ho visto gabinetti, hanno messo anche quelli per i disabili, no, con la porta molto più larga, però le docce proprio non ci ho badato. Vabbè che farci la doccia fredda con un freddo che già che c'era, ma io sono freddoloso poi, quindi va bene. Io mi sono mangiato qualcosa lì, una cosa minimale, adesso finisco, mi crepo qualcosa in cucina e così abbiamo completato il pranzo. Ma io sono da un po', dico, vabbè, a parte l'ultima volta che ci sono stato, non mi sono reso conto se il famoso muraglione che era caduto lì alla rotonda era stato ripristinato. Rattoppato, non è che abbiano fatto molto lì, si diceva che lì sarebbe stato meglio radere al suolo, rifare tutto, perché le fondamenta potrebbero essere marce. Hanno rattoppato per spendere meno. Poi fino alla prossima tragedia, cosa vuoi ti dica? La solita cosa, dai. Quando io c'ero stato, cosa adesso mi ricordo, se era febbraio o marzo lì, con un amico siamo portati il cane a fare una passeggiata lì, dalla rotonda sino all'ex Toluca, sai, passando lì in spiaggia. Cazzo, ma dopo la rotonda, cazzo, una tristezza infinita, sembra un posto dove c'è passata la guerriglia, cazzo. Un po' già lo ricorda, ma si anima molto luglio, agosto, no? Turisti, eccetera. Va bene, dai. Domani se riesco vado, se mi basta la benzina, se no rimando a lunedì. Poi vabbè, c'è quello brubrio, quello che resta dell'idoiride, Bacari, dai, mamma mia, che cosa sconcia, cazzo. Io spegnete i baracchini che sono entrato io, aiuto. Spegniamo tutto, io. Ciao già. C'era tutti. Non l'avevano dato in gestione quell'idoiride. Non sono voluti a fare nulla, volevano fare, tutti vogliono fare, ma poi è sempre un rudere. È sempre un rudere lì, bisogna buttare giù tutto, quello è pericolante. Mi ricordo già che un profeta, no? Lì c'entravo in moto, siccome puntualmente qualcuno rompeva la rete, parcheggiavo la moto dietro proprio l'idoiride, no, non si vedeva la strada. E andavo proprio alla spiaggia lì. Poi mi avevo fatto riprese dentro, ero salito sul tetto, quando la scaletta ancora permetteva di salire sul tetto, avevo fatto le foto dall'alto. A me mi sono sempre piaciuti gli edifici, i ruderi, no, quelli mezzi pericolanti. A mio rischio di pericolo. Sì. Ma io tanti anni fa, non so se fosse stato l'ultimo periodo che è stato aperto, ci avevo fatto qualche serata, avevo messo un po' di musica lì, ma ti parlo di un sacco di anni fa, parecchio tempo fa, anni 80 forse, metà anni 80, una cosa del genere. Lui l'aveva preso Cermelli in gestione e ce lo voleva comprare addirittura, però per cose burocratiche poi non ha potuto aprire, e aveva già assunto gente, stavano già lavorando. Solo che come fanno a gestire un locale che è a rischio di crollo? Forse non so se si possa recuperare Meggia con opere di muratura o se vada buttato giù. Vabbè, e mamma dice che ai tempi suoi era un bijou, era una perla quel posto. Stiamo parlando degli anni, credo, 60, forse 70. L'ambiente era anche migliore, è tutto billoi a platano. Io davanti al bar, quello spiazzo che c'era, quante volte ho ballato all'aperto, Già me lo ricordo anche io, sempre musica manetta, la notte si ballava all'aperto, in più c'era la piscina, c'erano le gabine, c'era... Era forse l'unico stabilimento balneare che c'era senza forze. No, c'era anche Coso, c'era anche Montalbano. Seia. Tu in che anni l'hai frequentato già? Anni 70 può essere, perché mamma è più grande, forse 60 lì, ma adesso non so nemmeno quando l'hanno costruito quello, e niente sapete, l'anno di costruzione. Negli anni 60 no, perché io sono del 59, quindi immaginati, avevo un anno, la 60, ma penso che fosse negli anni 80 così, lì si ballava, io me lo ricordo bene, poi entravamo di nascosto, andavamo in piscina, la piscina praticamente prendevano l'acqua del mare, e c'era l'acqua salata nella piscina, perché poi scaricava in mare, c'era la tubazione che passava nella battigia e scaricava in mare. Ah, salata era, così risparmiavano anche sull'acqua. Dai, riprendilo profeta che mi mangio qualcosa in cucina, dai, per integrare. Ega, ciao Gianni, sì, ma quello risale a... quello risale agli anni 60, aveva costruito Pani. Adesso inizialmente non ti voglio dire casare, comunque l'aveva costruito Pani, quello che aveva l'agenzia di Gran Turismo qua a Sassari. L'aveva tirato su lui e l'aveva gestito lui, su lui, poi non so poi come è proseguito la gestione e chi l'ha gestito poi nel corso degli anni. Sì, comunque credo che sia la sua costruzione, credo che risalga fine anni 50, prima anni 60. Ricordo che mamma ci portava col pullman di Pani lì e scendevamo sempre da Pani, prendevamo la gabina, non è che era grande, ma almeno la roba da vestire ci stava, per cambiarti andava bene, eccetera. Ci avevi la gabina tutto il giorno, l'ombrellone, e ci fermavamo lì, ci portava il pullman di Pani, poi il pullman di Pani passava e ti portava sino all'emiciclo, poi da lì prendevamo il tram. Me lo ricordo ancora come se fossi oggi, i tram erano di quelli verdi col motore al centro, quelli OM, non so cosa erano, non so se li hai conosciuti. Sì, quelli verdi e grigi, verdone sotto e grigio sopra, sì, già ho capito di cosa stai parlando. Sì, col bigliettaio seduto dietro. Esatto. Vedi che già li hai conosciuti anche tu. Un caso che ci drama, che era un motore Trento, sotto a fianco all'autista il motore era. Il vano motore era proprio lì. Sì, c'era quella cellula bombata all'interno, dove praticamente quella era praticamente la carena che rivestiva il motore, dai. Per coperchio, se dovevi accedere al motore dovevi alzare lì. I pullman di Pani, mi ricordo che tra un sedile e l'altro ci avevano disegnato le fotografie del mare, di Pani che facevano, dello stabilimento, tutte le fotografie del mare, della spiaggia, eccetera, eccetera. Non so se te lo ricordi. Ma nelle spalliere dici? Praticamente i pullman di Pani ci avevano dietro nel sedile, nella spalliera del sedile, ti venivano proprio di fronte quando tu ti sedivi, tutte le fotografie dello stabilimento di Pani, c'era la spiaggia, il mare, i locali, il bar, eccetera, eccetera. Sì, già me lo ricordo quello, me lo ricordo. Poi vabbè, oltre che io mia zia mi portava c'era il pullman che si fermava in Piazza Mercato, dove c'era la Iola asfalto di traffico. Lì c'era la fermata della scia, lì fermava, perché esisteva l'Art e la scia. E mi ricordo i vecchi Fiat, quelli tutti arrotondati, grigi con le fasce azzurre, e praticamente da lì partiva il pullman che ti portava direttamente a Paltamoa. Sì, me lo ricordo che c'era la scia pure. Bei tempi. Pagani era uno dei più rinomati, perché si ballava la notte, addirittura sai che ci andava a cantare, Loredana Bertè andava a cantare lì. Ma no, negli anni 60 è passata un sacco di gente famosa lì, cioè era, negli anni 60 gli devo dire, era uno, come si dice, un posto molto frequentato da gente di un certo tipo, dai, soprattutto artisti, cantanti dell'epoca, insomma personaggi di un certo livello. Ti sto dicendo, ha cantato anche Bertè, magari che ancora non era molto famosa, però per dire, si ballava, me lo ricordo, lenti, di tutto e di più. In quello spiazzo che c'era, io me lo ricordo come se fosse oggi, di fronte al bar. Sì, quella, chiamiamola una sorta, quel cortile interno a forma di cerchio con tutti i segmenti, i muretti divisori che c'erano. Esatto, e si ballava lì fuori. Lume di candela, cose, tutto quanto fatto bene con i tavolini, eccetera, eccetera. Si stava bene, dai. Era anche un bel ambiente, la verità, non era un ambiente di gente delinquente, roba del genere, si stava bene. Io sono andato parecchie volte. E poi anche da Ernesto su, all'ultimo piano c'era sempre musica, cose, si andava lì. Poi anche quello ha fatto brutta fine, ragazzi, io non comprendo. L'Euro du Brasil era uno dei più rinomati, boh. Ricordo. Poi vabbè, prima che chiedesse tutto lì ci avevamo fatto la piscina all'aperto su. Vabbè, prima era locale, non era tipo locale notturno, si cantava, karaoke, tutte queste cose qua, capito? Sì, la pizzeria era giù prima e sopra c'era un locale. Infatti una volta sono andato io e mia moglie, quando eravamo giovani, il bambino era piccolo, ha detto no, se non è maggiorenne non può stare in questi locali notturni. Vabbè, sono i genitori, non è che no, noi bambini non possono entrare, noi siamo fatti entrare. Sì. Me lo ricordo, l'Euro del Brasile. Io ti ripeto, forse una delle ultime volte che ci sono stato avevo mangiato la pizza sopra. Mi ricordo se c'era qualcuno che stava suonando la tastiera o boh, cos'era, Guminelli. E forse è stata una delle ultime volte che l'ho vista aperto. Hanno fatto tutti brutta fine, perché sai cos'è? Che non l'hanno valorizzata Platamola, perché se facevano degli stabilimenti balneari lungo tutto il litorale, la gente ne accudia e quindi sarebbe anche andata a mangiare la pizza, a mangiare il gelato. L'unica cosa che è restata di Ernesto è la gelateria, buono, vero. Il ristorante ha chiuso, che era un ristorante che si mangiava molto bene da Ernesto. E lo stesso il bar, che strano, guarda. Io ci avevo mangiato alcune volte lì da Ernesto, mi ricordo un paio di volte perché ero invitato a un matrimonio, sì, io, mi ricordo che si mangiava bene in quel posto. Non era manco caro, erano prezzi accessibili. E vabbè, le cose belle finiscono. Marco! E io? È vero. Poi l'Euro del Brasile, non so perché nessuno l'abbia mai recuperato, riaperto. Tutto è malora lì, proprio alla rotonda. Il ristorante di Ernesto, stessa cosa. Lì l'unica cosa che sanno fare i cosi comunali è... Vabbè, lì sono privati, lo devo prendere. Marciapiedi per passeggiare, perché la gente in estate va a passeggiare a Platamona, capito? Dovrebbero fare qualche cosa di attrattivo, non lo so, spettacoli, musica, tutte queste cose qua. E avrebbero attirato la gente. Fai tipo karaoke, oppure cosa ti posso dire, una specie di corrida dove partecipano tutti quanti e ci sono, giorno per giorno vai a vederla, eccetera eccetera. Sarebbero belle queste cose, ma non è che hanno molta iniziativa, no? Secondo me è un po' lasciata andare, dai. Senza contare tutte quelle varie strutture in legno, ecco, sorigliane che sono state tirate su e poi capita di fuoco, un sacco di cose che sono andate a finire male. Ti dico, quando c'erano quelle cabine era meglio, perché almeno riempiva la spiaggia, ma è tutto chiuso, ma era un deserto. Quando c'erano quelle cabine, se c'avevi il caldo ti mettevi a fianco alla cabina e c'era l'ombra, ma per mangiare poi ti mettevi all'ombra, vicino alla cabina c'era proprio l'ombra e cose, noi facevamo così perlomeno. Nessuno di zia nuda. Mangiavamo e poi praticamente ci facevamo il bagno dopo mangiata, non ce la fottia nuda, a me non mi ha mai fatto nulla, la verità. E c'era anche un po' di padronanza, quello sì, qualcuno ti mandava via, però solitamente noi ci mettevamo sotto una cabina dove non ci dicevano niente. Ce n'era uno che pare un padrone, e dice no, qua non ti mettere, qua è casa mia, qua dove che cazzo è casa tua, tutti i gatti abusivi. Il Lido di Sassari, quello a sinistra, cosa fa? È aperto oppure c'è solo il bar? E prima c'era di tutto, piscina, poi l'avevo rivisto l'anno scorso mi pare, ma c'era un bar aperto e boh, però tutto il resto nulla. Punta Bianca stai dicendo, Lido Punta Bianca o Lido di Sassari? È quello subito a sinistra della rotonda, guardando il mare, il Lido di Sassari, sì. Io l'ho visto le ruspe io buttando giù tutto quanto una volta, questa donna che gridava, aspetti ci sono i documenti, no non mi interessa signora, io c'ho l'ordine di buttare tutto giù, prendevano cazzo e buttavano tutto giù con la ruspa. Deve essere che c'era, che era cosa che non si poteva fare, erano tutti abusivi. Prima io me lo ricordo, lì c'era sempre spettacolo, io andavo con mia moglie e cosa, andavamo in pizzeria lì, poi c'era lo spettacolo di notte, Pino gli Anticorpi, oppure c'era i Tre Sardi, oppure c'era Celentano, il piccolo Celentano, insomma un po' tutti. Cosa abbiamo visto Renato Zero dei Poveri, come si chiama? Chico Solinas. Eia. E c'è la piscina, insomma, poi tutto è malora, è una cosa allucinante però. O davvero sono cose tutte abusive, o cattive gestioni, non lo so, mi ricordo il ristorante, quello sì, vero. E vabbè, che vuoi ti dica. Anche lì c'era passato il fuoco. C'erano più locali, uno faceva passato il fuoco lo stesso lì. E poi alcune strutture che dovevano aprire, così puntualmente hanno preso fuoco. A tua discrezione e gusto andare dove volevi, capito? C'era proprio l'imbarazzo della scelta, c'erano due o tre che facevano musica. Eia, allora avete parlato in due, è passato Gianni, doppio room. Sì, mi ricordo l'ultimo in fondo, musica, adesso di che anno stiamo parlando? Forse 2005. E poi, vabbè, io non sono poi frequentatore di, sai, musica, karaoke, quelle cose lì un po'. Se ascolto ancora roba rocchettara, figurati il karaoke quando mi attira. Vai Gianni, lo profeta. Stavo dicendo che lì di Sassari c'era passato anche un fuoco e poi alcune strutture che dovevano aprire, che erano state terminate, dovevano solo aprire lì, vicino al loro Brasile, sulla destra, anche quelle misteriosamente hanno preso fuoco, non so se ve le ricordate. Non me lo ricordo questo, comunque Marco, se lo vuoi sapere, sino a poco fa io stavo ascoltando gli ACDC. Ottimo. Siccome lo stereo della macchina è rotto, no? Da una dita è rotto. Ho messo musica casuale che ho trovato su internet. Questo gruppo chiamato The Acid. Non lo so, un genere strano, The Acid. Praticamente sono quelli che hanno fatto la colonna sonora del telefilm Sharp Objects, mi pare, o roba del genere. Non li conosco, magari se sento la musica sì, però non li conosco. Ma io ascolto Vittotto, ho borderline dei tottogrammi mi faceva impazzire, specialmente il primo pezzo. Voi non l'avete conosciuto quando c'era Montalbano, che facevano la tenda teatro, voi non l'avete conosciuto, siete troppo giovani a Platamona, sto parlando di Platamona. Pino Mu, e cioè Pino Mu, il negozio che c'era una volta a Santa Maria, a Corso di Mubri, sposato con Montalbano, e lì avevano fatto il teatro tenda e venivano gli artisti da fuori, dal continente, tutte le sere, immancabilmente, e io lo so perché ci ho lavorato con Pino Mula e dunque ci andavo spesso lì. Buonasera a tutti. Ciao Giulio, io Montalbano l'ho conosciuto e con il figlio di Montalbano sono stato a Cascola con Ignazio. E adesso Ignazio si è aperto il bar in via Grazia Deledda, sono proprio di fronte al caccia e pesca. Io sto parlando addirittura del signor Tevina Montalbano, la vecchia, che sono tutti morti, ormai sono tutti morti, anche Pino Mu è morto. Era il negozio più grande che c'era stata in quanto a mobili, elettrodomestici, articoli da regalo, un po' di tutto c'era, che poi tra l'altro aveva anche due negozi in piazza Tola, e dunque poi però ha unificato il negozio perché lui era un puttaniere e tutte le puttane che c'erano lì commesse e lui se li portava a letto. Allora la moglie che se ne è accorta, signora Terina se ne era accorta che il marito era un puttanente, allora il negozio di piazza Tola li ha chiusi e li ha unificati lì sempre a Santa Maria, dove c'era l'ex ortofrutticolo prima, un mercato ortofrutticolo prima lì, che adesso è tutto, poi aveva si era incendiato e lui si sapesse la storia, ma io gliela conosco tutta quella storia. Non solo di conoscerlo, ho anche visto l'incendio, siamo andati col Cisone a spegnere, c'erano vigili del fuoco, uno è saltato dalla scala perché è esplosa una bombola di ossigeno che c'era sotto, perché c'è un'officina sotto Pino Mu, è esplosa, questa, come si è detto, lo scoppio è saltato dalla scala, ha fatto un riavrinco. E non ha bruciato solo le voce, ha bruciato tutte le attività che c'erano, anche lì dalla parte di Santa Maria verso il sottopassaggio, c'era anche la falegnameria, c'era un'azienda di bibite, insomma c'era un po' di tutto, e quando è successo l'incendio tutto quel padiglione è stato completamente raso al suolo, nel senso che tutti i pavimenti erano in legno dentro, eccetera eccetera. E mi ricordo che una volta avevamo chiuso il negozio, avevamo tranquillo e pacifico. Fin domani mattina, quando siamo arrivati nell'ingresso di Pino Mu, cioè del negozio, perché c'era un cancello grande in legno, che c'è ancora, c'era uno spiazzo prima di salire nel carro. Lì dentro era tutto pieno di scatoloni, ma scatoloni grandi, tutti pieni di pellicce, cosa che non c'entrava niente con il negozio di Pino Mu. Tu pensa, la sera noi abbiamo chiuso il negozio, tranquillo, e poi noi siamo l'indomani mattina, quando siamo arrivati, guarda, aperto il negozio, la signora Caterina o che c'era prima, una specie di direttrice che c'era lì, abbiamo visto tutti questi grandi scatoloni ed erano tutti pieni di pellicce, di quelle pellicce costosissime, chissà la grande le aveva furate o chi le aveva portate lì, non abbiamo mai capito questo fatto qua. Evidentemente c'è stato un traffico commerciale o forse c'era qualche fallimento in atto, e allora lui per salvare chissà chi, magari qualche parente suo, ha portato tutte le pellicce, ma pellicce di valore di milioni, non da 200 euro, da 200 mila franchi, no, allora c'era la lira. Pellicce da milioni, una cosa, guarda, cosa vuoi dire? Per dirti già. Mi ricordo che Pirumuni aveva anche una via Matteotti di negozio, se non erro, vero? Te lo ricordi tu, Giulia? No, ne aveva due in Piazza Tola. Prima ne è stato con uno in Piazza Tola, poi ne ha aperto l'altro. C'era Giulia, che poi tra l'altro la commessa che lavorava lì, ed era fidanzato con un bombolaio. Era fidanzata questa ragazza, si chiamava Giulia. E uno era dove c'è la Rossio adesso, uno era lì, il negozio, quello che contiene la contaderia, eccetera, e l'altro era di fianco, scendendo in via Mercato, quello che via è quella, c'era l'altro negozio di fianco, c'era, poi più avanti c'era un barbiere sempre in terza sola, c'era. Quando aveva scoperto la moglie di Pino Mura, signora Tenila, che aveva scoperto che il marito era un po' solente, perché se la intendeva con quelle puttane commesse, perché se non erano commesse non le assumeva lui, cioè se non erano puttane non le assumeva come commessa, allora ha scoperto il fatto e allora dice: negozi li chiudiamo tutti quanti in uno solo negozio, tutti a Santa Maria, così lì dice non puoi fare. E poi anche lì invece ne avevo trovati io, siccome lì era comparto il negozio, si incominciava con il negozio di elettrodomestici, dove c'erano frigoriferi, lavatrici, tutte queste cose qua, non puoi andare un pochino più avanti, c'erano i lampadari, poi andando ancora più in fondo c'erano gli stalli per ogni tipo di negozio, cioè tipo i saluti, i soggiorni, i tinelli. Alla fine giù in fondo c'erano gli stalli delle camere da letto, c'erano le camere montate con i letti e tutto, compresi anche di materasso. E io, siccome avevo capito una volta che c'era una certa Maria lì, che era molto, ma molto, col sedere molto caldo, io avevo capito che erano spariti sia lei, questa ragazza, che il principale, cioè il Pino Mura. Io sono andato in punta di piedi, con le scarpe da tennis allora, siccome il pavimento lì era di legno, quando si muovevi facevo un sacco di fracasso e dunque potevano ascoltare. Invece io, mio polmonello, ci sono andato in punta di piedi, ero un ragazzino, ancora, e li ho trovati tutti e due a letto, vita Maria e un Pino Mura. Vabbè, avanti per i saluti a Giulio, vai, Anni. Ciao Giulio, buonasera, ben entrato. A Marcorde, stiamo facendo a Marcorde. C'era Marco, magari si è spostato sicuramente per finire di mangiare qualcosa. Ciao Gianni. Sì Marco, questa è l'ora del desio per Marco, dunque lasciamolo mangiare, così almeno così cresce anche lui. Capito Gianni com'è la situazione? E poi ancora all'interno, ancora Pino Mura, che era il falegname che andava in giro poi per il montaggio dei mobili, c'era ancora più all'interno, c'erano i magazzini, i depositi, dove c'erano i mobili piazzati, e tu non hai idea di quante volte io ci sono stato sempre con quelle donne puttane che c'erano lì, dentro gli armadi, e non ti dico che cosa succedeva, chiudevamo l'armadio e noi eravamo dentro, tanto l'armadio era vuoto, l'armadio tonale, se ne puoi immaginare, e ti puoi immaginare pure lui. E c'era una tipa che abitava in via Bugino, abitava, tendeva col compare di Pino Mura. Questo compare, a me mi raccontava tutte che io avevo avuto allora in quel periodo, quando avevo avuto 17-18 anni, e dunque sapevo tutta la storia, tanto è vero, questa ragazza a quest'uomo le dava del su quando erano da soli, mentre invece quando c'era gente poi era messo lì, a parte il fatto che non lavorava fisso in negozio, ma bensì solamente la sera, questo era il impiegato del genio civile, era come il primo lavoro, e la sera andava e faceva lui il dirigente del personale, perché c'erano roba di 8 commesse, c'erano falegnami, c'erano uomini fatica, c'erano autisti, insomma di tutto. E questo qui se la intendeva con una di queste commesse e a me mi raccontava tutto. Un bel giorno ci siamo incontrati per strada mentre andavamo in negozio e questa ragazza con lui che parlavano animatamente, diciamo, a un certo momento che cosa gli usciva un po' del lì, un po' del tu, a questo gli fa, dai cosa fa la cosa, quando sei Giulio sei tu, tanto lui sa tutto di noi. Così gli aveva detto questo personaggio a questa ragazza già. Sgavatti, vabbè, altri tempi erano, e dopo dice che non ne combinavano prima di cose, non si sapevano, ma già le facevano lo stesso. Corrotta Pignara. E questo qui abitava anche lui a Sacro Cuore, vicino dove abitava una volta, abitava Andrea Oceano, abitava lì in una di quelle case, non so se tu l'hai conosciuto, dove abitava Andrea Oceano tantissimi anni fa. Sia Giotto. Esattamente. E questa abitava lì. Mentre questa donna abitava in via Bugino. E non ti dico angolo dove. Ma te lo puoi immaginare quale angolo. Piano terra. Tre sorelle, la più grande e poi due più piccole. E due più piccole lì. Però tutte e due, una più puttana dell'altra. E sarà non vive adesso. Non lo so se la grande è tempo, lì avevo 28 anni ed era più grande di me di 10 anni, che puoi immaginare, era. No, so che molto, il fratello da un annetto, sarà un anno e mezzo di quella, ma il fratello che poi tra l'altro questa tipa qua era montata con quello che lavorava lì da Pino Mura e con un certo di qua faccio il nome perché intanto è conosciuto, che aveva una macchina sportiva che iniziava con iniziare S il nome e Maria Giulia mi dice Tito, perché oltre al lavoro che guadagnava lavorando lì come commessa, evidentemente prendeva i soldi sia da uno che dall'altro, perché era mica dovuto tutti e due. Ma non c'era quella che hanno ammazzato che abitava dove c'è l'antenna che sporge, no? Tra via Bugino e via... Io mi ricordo che avevano ammazzato la donna lì. Questo me lo ricordo, dato che anche lì ti posso raccontare una storia anche di quella. No, ma quello lì è più in fondo, quello è via Bugino, quello via Sicilia, no. È molto più su, Gianni, un profeta, avanti. Chi è che vuole entrare? Avanti. Boh. Qualcuno molto lontano. Cosa volevo dire? Vabbè, anche lì gossip a non finire, nonostante siano passati tanti anni, ma da che esiste l'uomo queste cose sono sempre esistite, quindi non c'è da sorprenderci molto. Io ti sto parlando esattamente dell'anno 1960-62, siamo lì, eravamo lì, in quelle erano, se puoi immaginare. E appunto, siccome il teatro Tenda era di Montalbano, Pino Mula, sposato con questa Montalbano, a Plaza Mora facevano questi spettacoli, ma tutti i giorni, tutte le sere c'era spettacolo, canzoni e balle varie. E io mi ricordo che a un certo momento c'era il piano forte, che era suonato, c'era era scordato. Allora abbiamo chiamato uno che prima aveva un'edicola, c'era in Piazza Tola, da una persona che era cieco, completamente cieco, però si intendeva di questi lavori qua, accordare il pianoforte eccetera, e l'avevamo accompagnato io e l'autista di Pino Mura, l'avevamo accompagnato Brata Mona presto la sera per poter fare il lavoro al pianoforte. Quando tutto quanto sistemato poi dicendo a due padri hanno iniziato il spettacolo, però noi siamo saliti che erano verso le 10 la notte, siamo saliti non vedete. Quando siamo arrivati all'altezza del civico, e cioè esattamente lì all'angolo di via Duomo, lui ha detto questo vecchietto, cieco, ha detto, a me mi fai scendere lì all'angolo di via Duomo, ma no, l'accompagniamo a casa, no, tu a me mi fai scendere lì e poi da lì io vado da solo a casa. E come fa a dire, non ti preoccupare, che io a casa ci arrivo tranquillamente, anche se sono così, ci arrivo tranquillamente. Allora, in quel periodo, in via Duomo c'era tutta la strada, tutta lunga, tutta quanta, la strada aperta, che stavano facendo dei lavori, dei sotto ringhierato, e si passava la gente, ma poteva passare una persona per volta, non di più. Beh, tu non ci crederai, quest'uomo talmente insistito che noi abbiamo fatto scendere dalla vecchia 600 di una volta, che allora per ci fare aveva la 600 che apriva davanti, del primo tipo proprio. L'abbiamo fatto scendere e abbiamo parcheggiato e l'abbiamo seguito per vedere dove andavo questo. Tu non ci crederai, quest'uomo non vedente, completamente non vedente, è arrivato a casa sua tranquillo e pacifico. Non so come abbia fatto, sinceramente. Hanno lo stesso senso. Tu pensa che quando era la Croce Blu avevamo centralinista che era cieco, io non parlavo, dai passi mi diceva ciao già. Beh, quello sì, noi ti ricordi di Romeo 33 di Antonio? Antonio Ladinetti, già te lo ricordi? Mi capita se io lo guido, io mi ricordo allora in quel periodo, siccome io Antonio Ladinetti già lo conoscevo da tanto tempo prima, eccetera, no? E mi ero infortunato giocando a calcio, mi ero infortunato. Dove c'è adesso il fornitore di via Paccoli, quello più grande, non quello piccolo, non dove c'era di lungo, l'altro di fronte. Ciao tu, oh ciao giù, senza conoscermi, senza vedermi in faccia, perché già lo sai, Antonio non si vedeva. Era lui, era col figlio, con un ragazzino, non so chi fosse, boh, che era qualche riporto, non lo so. E camminando io gli ho messo la mano sulla spalla e lui si è accorto che io doppicavo. Sai cosa è? Cosa è successo? Mi è successo questo incidente, così giocando a calcio, eccetera, eccetera. Vabbè, fammi vedere, per così dire, no? Però ho fatto quello sulla il pantalone, la gamba del pantalone, e mi ha toccato il ginocchio. E dice, si è matto, anzi si occorre un fisioterapista, adesso si occorre per sistemarti questa gamba, perché a questo punto hai bisogno di un fisioterapista. E beh, tu non me lo puoi fare, no, io lo sai che io lavoro all'ospedale, lo sai, lavoravo all'ospedale, no, altro non lo posso. E mi avrebbe indirizzato lui, questo nel 1970, mi pare dire, se ricordo bene, adesso non me lo ricordo, però mi aveva indirizzato in questa palestra emergente che c'era in via Pocellana, che era la polifortiva di Sarese. Sono andato lì e c'era una persona che si è poi ha preso cura di me e mi ha fatto lui i massaggi di fisioterapia, eccetera, eccetera, bellissimo. Poi dopo, con un passare del tempo, era entrato anche per questa, te lo ricorderai Antonio, no? No, me lo ricordo sinceramente, perché era molto geloso della moglie e quando io parlavo con la moglie si incazzava e me ne diceva di tutti i colori, che mi ammazzava, che qua, che là. Io me lo ricordo sempre come una persona negativa. Sì, abitava via Sorso, me lo ricordo. Appunto, abitava via Sorso, era il figlio di quella donna che si metteva in via Muraglie, quella donna del Senorese, per vendere il Blua, che si teneva nel cappello, si teneva con il cesto grande del Blua che vendeva lì, se lo ricordare quella donna. E io conoscevo benissimo anche il fratello faceva il vetraio, Peppino, veramente lo chiamavo io, perché lo chiamavano tutti così, però si chiamava Giuseppino, Peppino Ladinetti, è morto però, già da qualche anno è morto, poveraccio quello lì, una bravissima persona, ma bravo, più bravo del pane, il Mantoni era così, non è che era una persona cattiva, era nelle condizioni che si trovava, tu lo sai benissimo, queste persone in qualche maniera almeno con lo spirito si devono difendere, no? Quando hanno un problema del genere già. Vabbè, ma io non ho fatto mica nulla di male, ho parlato con la moglie e mi ha detto di lasciarla in pace, che era sposata, che era qua, che ha detto guarda che io ci ho solo parlato, non è che abbia fatto nulla, e vabbè comunque tu stai lontano e basta, ma di tu mi nascendi. Casco, a me non me le dire queste cose, che io sono una persona tranquilla, non mi devi dire queste cose, stai tranquillo che non te la tocca nessuno a tua moglie. Vabbè, mi raccomando. Queste sono altre cose, quello lo sapeva lui, perché ti ha risposto così. Vabbè, avanti, profeta, sei o prefetta, o da Zedu, profeta o prefetta, o sindaco? No, adesso stavate parlando di una persona non vedente, che modulava in via Sorso. E forse l'ho conosciuto. Appunto, parlava a Baracchino, ma se vuoi venire di 45, 47 anni fa, a me questo parlava a Baracchino. Ma io lo conoscevo già da prima, da molto prima, parecchi anni prima. Vabbè, comunque era un'ottima persona, la verità. Mi ricordo una volta a Placamona, a distanza di, non dico molto, di 15 metri, allora abbiamo sia il ragazzo, sia io che lui, e le faccio da lontano, ciao a tu! Ciao Giulio! Per dire, no, ti conosceva, dalla voce era, non si sbagliava, guarda, come se mi avesse visto gli anni. Mi ricordo che, forse, perché mi ricordo che sopra lì, sopra il tetto c'era un'antenna grande e sotto mi ricordo che c'era un archivolto, l'ingresso, dove c'era un gommista, è possibile? Sì, era lì, proprio lì, è vero, era lì. E poi lì c'era anche un altro di amico, molto amico di Rattalino, Gianni Doppio Brutto, non ricordi come si chiamava quello, che non me lo ricordo io, che poi lavorava in officina di Assorso col padre. Non me lo ricordo nemmeno io, non mi viene il nome, ma già è entrato anche pochi anni fa in frequenza, ma non mi viene il nome. E ma già ci siamo capiti, quello che ci stava i baracchini anche, capito. Adesso non mi viene, se la punta della lingua non mi viene. Appunto, sì. Che si interessava anche di aggiustare i baracchini, perché avrebbe fatto un corso, credo, di radioamatore, credo, oppure qualche altro, però comunque, ad ogni modo, lavorava nell'officina del padre, che poi ci sarà ancora presso quell'officina, lì sotto in via Sorso, in quella di fronte a via Malvinuti, si passava lì, si entrava lì e si andava a finire praticamente sotto ponte quasi, dai. Capito, con la strada bianca che c'è anche un locale, c'è, ho capito dove. Adriano, adesso mi sono ricordato del nome, Gianni, Adriano, ti ricordi? Esatto, Adriano, sì. Adesso un po' che non lo sento, però un po' di tempo fa era entrato. Lo so, ogni tanto ci facciamo sentire, poi non si è fatto più sentire, adesso sono qualche anno senza sentirlo, poi va bene. Va bene, era purtroppo amico di Natalino, si vedevano sempre con Natalino, infatti mi ricordo che l'aveva dato a lui e dunque poi Natalino aveva deciso di prenderselo, però credo che non l'abbia mai veduto. E magari c'era sempre quel baracchino di Natalino, Adriano, non lo so, è la verità. Che ce l'ha? Ce l'ha sempre, vero? Ma no, se non è omologato non li usa più, perché dopo quello che è successo, se usa apparecchi che non sono omologati, lo beccano di nuovo sul tavolo. Lo so, quello vabbè, no, ce l'ha Adriano, io dico che ce l'aveva Adriano, l'aveva dato Adriano, che poi Natalino se lo voleva vendere, mi ricordo, 150, se lo voleva vendere. questo addirittura qualche annetto fa, meno uno o due anni fa, non di più, perché io a Natalino lo incontravo sempre via Pascoli, lo incontravo, e veniva lì via Rosario, chiedo, non ha mai avuto un lavoro, raramente ha lavorato, per cui a fondo quando aveva la pasticceria, eccetera, no, via Malvinucci. Però voglio dire, lo vedevo sempre, perché io bazzicavo lì da anni, anzi che ci sto ancora bazzicando da quelle parti lì, e lui veniva perché sapeva di trovarmi lì, e lo ti dico poi il seguito, gli alzai, da un po' di capire, no? Pagava. Ho capito lì, in quel bar dove ci siamo trovati anche lui, dai. Cosa vedendo lo stai? A Davide. Davide tutti i giorni, anche ieri. E beh, se sono lì. Io che sono tutti i giorni lì, mio Gianni, no, non ci manco, io mi manco. La mattina io salgo, arrivo lì, parcheggio e poi al Bonello già lo conosci, no? E se ne andiamo in giro, o dappertutto, se ne andiamo, e solito, adesso stiamo frequentando il bar di Monserrato, su, dove c'è il coso, la corte d'appello, lì, andiamo lì, ci sediamo, ci prendiamo il cappuccino, la pasta, eccetera, eccetera, due chiacchiere. Tonello adesso è in pensione. Adesso? Tonello è tantissimi anni in pensione, solo che lavorava ugualmente con le suore, perché le suore l'avevano praticamente quasi obbligato a stare lì lavorando, però si stava perché aveva anche un ultimo stipendio. Quando poi è morta la madre superiore di quel posto lì, è entrato un'altra e gli voleva tagliare lo stipendio a metà, e allora ho detto no, io me ne sto già andando, anzi me ne sono già andato, cercate per un altro perché io non ci vado più. E ormai ci manca già un paio d'anni Antonello dalle scuole, ma quando lavorava era pensionato, al suo tempo lavorava e prendeva anche un ultimo stipendio, ma ultimo veramente. Però non era assicurato. Era ugualmente assicurato. Infatti mi trattenevano qualcosina dalla pensione proprio per il fatto che continuavo a lavorare. Però poi naturalmente è stata reintegrata la pensione, ovvio. Ma a Donello piaccia. Noi prendiamo un sacco di rama, un sacco a vino, meno me. Più di quanto poteva prendere un lavoratore qualunque. Le ore le facevo perché se erano le 2, le 3 del mattino, anche se era di Natale, si moriva una vecchietta, le telefonavano a casa, Antonello vieni che è morta la tizia, tu lo sai, lì è un ospedale per solo donne anziane praticamente. E lui poi le faceva di tutto, faceva l'autista, ma un sentore in genere, dai. Faceva di tutto, il giardinaggio, tutto faceva, tutto indistintamente era sulle spalle di Antonello, andava a fare la spesa alla Vetro. Tante volte per fare una passeggiata ci sono andato anch'io alla Vetro, faceva spese da 500-600 euro, una macchina piena di viveri, sempre per queste donne che sono lì, no? Chiaramente. Antonello era intanto una grande persona, un uomo fidatissimo, ma affidato veramente, avere anche 60-70 mila euro in tasca, io che sto andando dal commercialista a portargli questi soldi, se fosse anche voi ci siete abusito con tutti quei soldi in tasca, e invece lui è sempre stato una persona seria, ma seria, che più seria di lui non esistono persone. Lo conosco dalla vita di Antonello. Quando frequentava Celestino mi avevano pitturato casa mia, capito? Tutta la casa, lui e Celestino. Celestino non so se tu l'hai conosciuto, lo zio di Andrea Oceano, era amico di mio padre, capito? Sì che l'ho conosciuto, come no, altro che se l'ho conosciuto, ero grigio. L'ho conosciuto sì, lo so, ma tu dici no? E poi è arrivata questa disgraziata di suora, perché quella lì è una disgraziata, una miserabile, quella che c'era prima era una grandissima persona, veramente. era voluto bene, Antonello, ma bene, veramente, ma non solo da quella, tutti hanno voluto bene, invece poi hanno sostituito questa con una arrivata da Tempio, e questa di ringraziata, di donna gli voglio tagliare il seppellio, ma no, tu a me non mi tagli proprio un bel niente, non mi tagli. E ha preso Antonello e si è licenziato sul mio piede, ho detto guarda, da questo momento io non ci sono più qua al lavoro, finisco i giorni e poi preparate i miei conti e me ne sto andando, anzi me ne sono già andato, consideratemi che me ne sono già andato da questo momento, preparate i miei conti e via. E così ha fatto, poi l'hanno pregato di ritornare, di restare, nulla da fare, non ci vengo proprio io, guarda, io non sono un burattino, non sono una persona disonesta, sono una persona seria e io non ci sto più. E ogni tanto lo chiamano magari per vedere, e devo dire che anche lui alle volte ci va e gli fa qualche favore così, cosa che non avrebbe dovuto fare invece considerato come l'ha trattato quella donna lì, capito? Magari è più affezionato agli anziani al posto che non a lì, lo fa più per loro. È una brava persona, dai, è sempre in chiesa, è una persona tranquilla, l'ho conosciuto io, da giovane proprio lo conoscevo Giulio, adesso non so quanti anni abbia perché ho perso il conto, ma penso che non sia grande Antonello, sui 63 anni. No, almeno 10 in più, 10 in più ne ha, 73 ne ha Antonello. Di anni, per cui prima era molto amico anche di Andrea, se ricorderai, no? Uscivano insieme, uscivano, insomma erano amici proprio per la pelle, poi le strade si sono divise, per cui un po' perché lui lavorava, un po' perché lavorava Andrea e ovviamente giustamente lo. Tu considera che di dare suono ha lavorato, Antonello ha lavorato, 17 anni ha lavorato, non un giorno, lì per 17 anni sono lunghi, non è un giorno, no? Cosa ti stavo dicendo? Beh, è normale che si diventassero amici perché Celestino abitava a casa di Andrea, lo zio, ha vissuto sempre con lui, capito? Quindi lui andava a prendere a Celestino, ha conosciuto anche Andrea, è normale, è una cosa quasi automatica. Vabbè, vediamo un po', Gianni, avanti. Andrea, ricordi quando abitava in via, che via è quella? Via Montello, facendo le piede. No, via Gabriele Annunzio, via Gabriele Annunzio. Abitava sopra l'appartamento dove abitava mia sorella, puoi immaginare. Poi da lì se n'era andato, vabbè, Andrea aveva piantato il divorzio lì in via Castelleretta, dove oggi c'è San Velio, con fratello, come c'è la pizzeria, questo è quello stesso locale, e poi da lì Andrea è andato a lavorare in pescheria, alla piazzetta, eccetera, eccetera, insieme alla moglie, eccetera, eccetera. E va bene. E Andrea, da quanto tempo siete da vedere tu? Io sono all'incirca un anno e mezzo, due anni senza vedere Andrea. Io l'ho visto da poco. Andrea, prima di aprire la graziatura, la peschiera l'ha aperta sotto casa mia, proprio a fianco al portone. Poi l'ha chiusa perché ancora la zona non era popolata. Stavano ancora costruendo palazzi e così. Tanto tu devi aspettare, ma il locale l'ho trovato adesso. E mi ha detto, uno ti può prendere pesce un giorno, ma non è che tutti i giorni può prendere pesce. È normale che deve girare la cosa, no? Se non c'è popolazione per comprare, è quella, e alla fine qui ha chiuso, riesce a poterla essere letta. Già lo so, già me lo ricordo. Poi aveva comprato la casa lì, l'appartamento sopra a dove abita mia sorella, già lo sai, mi aveva l'annunzio. E da lì poi se l'ha venduto. Se l'ha venduto e se n'è andato a vivere in campagna, io non so dove abita, perché una volta facendo strada lì ci sono arrivato, non perché sono andato da lui, ma ci sono arrivato perché alla fine ho visto la sua stazione, ho visto, scusa un attimo, il telefono mi stanno chiamando. Ma poi Gianni, dai, andiamo a scendere per la cena, dai, ce ne può lasciare. Sono quasi le 7:30. Ciao Gianni, e ciao l'altro Gianni. Ci sentiamo. Ciao Marco, ci siamo ascolto. Vai Gianni, chiudo. Ciao giù, buona carica, dai, ci sentiamo. Avanti Gianni il profeta. Ehi ragazzi, dai, vi saluto anch'io. Ti saluto anch'io, dai, buona carica, buone cose, Ruttino, buon fine serata, ok? Ciao Gianni, ciao, Marco ci sei? Abbio cazzo, scusate prima, dopo pranzo sono crollato, dai, ero in semi incoscienza, dai, buona serata a Giulio e a Gianni pure, allo profeta. Marco, cazzo, pure tu, manitale di drome, oi oi oi, capa capa, oramai questo è il tuo orario, dai. Sì, più che altro oggi mi ha stancato il mare un po' già, il mare, vabbè, è partito da casa alle 2, 3 orette sono stato, dai. Poi cominciavo a fare un po' di fresco, era un po' ventilato, un po' troppo fresco per i miei gusti. E sono rientrato. Spiaggia si è andato là. Ehi, alla rotonda proprio, a sinistra della rotonda lì. Tranquillo ambiente, certo, non ci sono turisti, ancora non c'è il tanto, capito? Domani sarà molta molta più gente. E forse la temperatura è anche più alta, già. Mi sono portato, vabbè, l'ombrellone, la sedia e il lettino, perché voglio stare comodo, tipo Lido. Cosa ti putti, il carrello ha preso la macchina. No, già c'è tutto in macchina, sai quelle sedie pieghevoli, no? Lettino pieghevole lo stesso, ci metto l'asciugamano sopra. Non mi piace stare troppo a contatto col suolo, anche perché lì di notte magari ci vanno pure a pisciare, mi hai detto, tra noi in spiaggia. Infatti poi mi sono fatto la doccia rientrando. Comunque sia, sai, ci cammina un po' di gente, ci fanno anche di peggio di notte lì, detto. Vabbè, il primo assaggio d'estate è stato, però ancora fare bagno a zero, c'era fresco, caspita, finché ci sono 30 gradi, ti ho detto, bagno non le faccio. Io non me ne farò, quest'anno non me ne farò, con tutti i dolori che ho io, prenderò un po' di sole se vado pure, non lo so, perché non sto bene, è il febbre che mi sta facendo vedere le stelle, adesso devo fare la risonanza magnetica, a 360 euro, l'altro giorno 100 euro per fare la visita dal reumatologo. Lo so, perché purtroppo noi finché possiamo facciamo così, perché altrimenti devi aspettare 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi in base all'esame che devi fare. No, credo fosse roba del piede, forse che sia un po' di, come si dice, artrosi dell'anca. Sento mio hermano delle Spagna della Scusia, l'isola della Sardegna, adelante, però comprendido. Oh, me sta llegando aquí super fuerte señal de 9, QSL. Emanuele, l'operatore Gianni Doppio Room, in tandem con l'amico Marco, avanti mio hermano Marco. Dagli un saluto in famiglia, non ho voglia, sono di spalle anche, non sto guardando il baracchino, non ho voglia, mi fa di ex. Dico Marco, te saluta mio hermano, te manda le saluti. C'è un segnalito del Radio de Santiago, Parito. Legna verde, questi spagnoli. Ehi, c'è l'altro, non voglio far di ex. Ma è frega, sai, poi sempre spagnoli arrivano qua, sempre solo spagnoli. Purtroppo ce l'ho aperto verso la Spagna, troppo aperto. E invece il continente è chiuso, mannaggia a me. Va bene. È così, da domani vedo, decido se andare, anche perché sarà un casino per il parcheggio. Già lo trovi se ve presto. Interessante che non ve tardi, perché la rotonda non si può più parcheggiare, cominciano a mettere multe adesso. Infatti, però sai cos'è? Ah, vabbè, alla rotonda, anche per questioni di stabilità, non lo so, non mi fiderei a parcheggiare proprio nella rotonda, a parte che è divieto. Metti che frani qualcosa come è successo quella volta, boh. Poi a sinistra invece dove c'era Ernesto, da lì in poi tutto divieto di sosta e di fermata. Proprio lo fanno per fare multe, per rubare i soldi, perché di tram non ce ne passa uno, ce ne passano due affiancati lì, quindi non è questione di circolazione, è per rubare i soldi. Poi anche alla rotonda hanno fatto una grossa cazzata, adesso chiudendola così cosa hanno combinato? Che i turisti che arrivano col pullman, qualcosa, prima si parcheggiavano lì pullman e scendevano tutti, adesso non scende nessuno perché non si possono parcheggiare. Beh, due così, non c'hanno nessun posto a mettere i pullman quando arrivano dalle gite turistiche e cosa. Arrivavano quei tedeschi con i pullman due piani, scendevano, parcheggiavano il pullman e scendevano tutti al mare lì. Sì, forse che abbiano paura per il peso, perché lì, come diceva qualcuno, andava raso al suolo, la rotonda rifatta da capo, perché c'erano fradici le fondamenta, se no quel crollo non ci sarebbe stato. Invece hanno rattoppato e chiuso il tram, chiuso il pullman. Comunque io non mi fido a mettere la macchina, anche perché è divieto, è tutto divieto, sta diventando un divieto unico da tutte le parti a Platamona. Comunque se vogliono così, lascia che muoia la rotonda, che muoia pure, buon viaggio, già me ne vado altrove. Ah, infatti invece di valorizzare le cose cercano di allontanare il turismo, cercano di allontanare la gente. Prima le bancarelle, quella cosa lì, attirava la gente la notte per passeggiare, ma hanno fatto una rettata, una volta finanza, carabinieri, polizia, hanno sequestrato tutto quello che ci avevano, hanno tutti quanti, tutto preso la roba, caricato il camion della polizia, roba del genere, tutto di roba che c'era. Mi pare di aver letto un articolo della nuova Sardegna dell'altro giorno, e diventerà tutto un mezzo regime, perché faranno la spiaggia dei divieti, come stanno facendo alla Pelosa, capito? Non puoi fumare, vabbè, io non fumo, ma ci devi uscire in affandomo a fumarti una sigaretta. Fra un po' vieteranno tutto plastica, non ti puoi portare piatto di plastica posate, manco lo buttassi in spiaggia, cioè non lo sanno che la gente c'ha anche le bustine, come facevamo noi, mettiamo tutto nelle bustine e ce lo portiamo via. No, certo non butto il piatto di plastica, le posate di plastica in spiaggia. Poi stanno rompendo le scatole anche alla vendita ambulante itinerante, no? Questi poveri cristi, diciamo, di pakistani o cosa sono, che vendono collanine, occhiali, perché dice che infastidiscono, secondo la testa loro, infastidiscono i baglianti, no? A me è fastidio, non me da, anzi quando c'è una roba interessante qualcosa li compro anche qualcosa, no? Probabilmente alla Pelosa sono fiaghini, capito? Non tolleranno la musica, non tolleranno i bambini con un pallone magari a un chilometro, non tolleranno i tamburelli in spiaggia, vogliono vietare tutto, cioè manco i bambini con i 6 tamburelli con la pallina di gomma, tutto vietato. Ah, pilatevi il culo, scusa il termine. Ti devi portare anche la scuia, perché non puoi mettere l'asciugamano nella battigia nel mare, nella spiaggia, non puoi mettere asciugamani, devi portarti la scuia, se no non ti fanno, gli asciugamani non te li fanno mettere. Eia, ma per adesso è alla Pelosa che vale quello, o anche a Platamona, perché scuia non ne va nessuno oggi, No, la Pelosa e basta, questo qui, questa è l'ordinanza del sindaco di Stintino. Già che si paga il parcheggio una vacca di dinà, non è possibile pagare 10-15 euro al giorno, per starci, a volte ci stai anche a mezza mattinata, anche se paghi 10 euro. Ehi, aspetta che ne avevo letto una tempo fa sulla Pelosa, avevo letto qualcosa riguardo, cos'è che volevano fare, che io ero rimasto allibito, non so se volessero eliminare la zona dei parcheggi, no? Quella proprio, sempre che esista ancora, proprio attaccata alla Pelosa e fare tutto un viale pedonale, così la gente deve parcheggiare a chilometri di distanza. Questi sono scemi. Spero che non sia così, che si possa parcheggiare ancora. Io la parcheggiavo su, poi c'è un sentiero che ti porta sino alla spiaggia. La parcheggiavo su dove c'è l'albergo Roccarruia, lì, proprio avanti, e c'è un albergo interno, metti la macchina nei parcheggi dell'albergo e te ne scendi, te ne stai tutto il giorno tranquillo, poi vai, ti bini la macchina e se lo diri no che chiedi. Solo che a me non piacciono, cioè di principio sto che vogliono bloccare anche i venditori ambulanti, non lo so, mi sa, la stanno trasformando in una spiaggia da per fiaghini probabilmente, per turisti fiaghini, capito, che non tollerano nulla, no, non puoi accenderti una radiolina che magari ti dicono cosa. Non dico di mettere uno stereo a alto volume, ma una radiolina vicino all'orecchio, ascoltarti qualcosa, boh, vabbè. E così faranno Platamona, amico, già credi? Ho letto qualcosina, credo che ci vedremo passeggiare in spiaggia, i vigili urbani in mottande lì con i calzoncini, che stanno a ficcare il naso. Se scantono però, si è capito, è una cosa brutta che si sanno controllare dove metti le mani, se c'è la sigaretta tra le dita, se ti pulisci i piedi. Si vede che non hanno un cazzo da fare comunque, se fanno questi servizi. Perché c'è gente disciplinata, Marco, quello lì bisogna ammetterlo, c'è gente disciplinata. Io molte volte al mare mi ricordo, sai come fanno quando sei seduto nell'asciugamano, scavi coi piedi e molte volte così scavando e trovi pezzi di plastica, bicchieri, di tutto e di più, roba di patatine, cose, buste di patatine, di tutto e di più. C'è gente disciplinata, bisogna dirlo questo. Comunque la maggior parte della plastica viene buttata dalle navi perché va, quando ci sono le maneggiate e poi torna indietro, ed è dal largo che viene, perché non è possibile che la gente vada lì a mangiare e poi ci butta la plastica nella spiaggia. Se non si è mai visto, queste cose sono troppo evidenti, si vedono, non lo fanno davanti agli altri, se no un'altra persona stesso gli potrebbe dire cose, se dice qualcosa richiama i vigili, e quindi non conviene farlo davanti agli altri. Però lì sono marinai che li buttano dalle imbarcazioni, capito? Beh, lì quando guardano l'orizzonte non vedo un'anima, non c'è nessuno nel raggio di 50 km e scaricano, e chi li controlla lì? Vabbè, è vero, la gente è sporca, però allo Scoglio Lungo c'erano più cicche che sabbia, lo sai, era un impasto di cicche e sabbia allo Scoglio Lungo. Poi anche lì hanno vietato fare il fumo in spiaggia, cioè devi andare a bordo strada, poi non so se ci siano cestini o roba del genere. C'è chi lasciava puntualmente le bottiglie di birra, bevute in spiaggia, figurati, magari pure calda era. Non so, la gente è indisciplinata, però ho visto che si tende a dare la colpa troppo ai turisti, no? Anche per le pinette, tutte le bottiglie di birra, i piatti di plastica, sono sempre i turisti. E io quando vedevo gente facendo casino e lasciando mondezza in lontananza, erano sempre greffe di Sassarese, se capì. E diciamo, il turista è l'alibi. Io non l'ho mai fatto, io manco un capello ci deve rimanere in spiaggia, nulla, io ripulivo tutto, non lasciavo né bucce di nulla, di merendine, nulla. Io, noi facevamo così, ma non sono tutti, Marco, non sono tutti che lo fanno. Ma buona, ti saluto, che il Cesar sta brontolando, è già tardi a portarlo giù. Mi è passata l'ora, non me ne sono mai capizzato. Vabbè, Marco, dai, ti auguro una buona serata, ti sarei abbronzato, meglio per te. Prenditelo anche da parte mia il sole, che quest'anno mi sa che io, e come faccio? Vabbè, là. Speriamo che passi questo dolore, perché non ne posso più. Prova, se artrosi dell'anca comunque, beh, sempre curabile, non è che È seccante quando si ha. Vabbè. Ehi, già, dai, sentiamo, buona passeggiata. Caspita, alle 9:20, passate pure. Vabbè, adesso mi attacco lo tipo. Ci sentiamo già, ciao, ciao, buona serata. Pertanto, ciao Marco.